giornata, Signore. Vieni, mio Signore, dove sorge il sole, dove cresce il grano, dove scorre il miele. Vieni e guidaci, o Gesù. Tu sei beato sulla croce, questa è gloria, nostra luce. Tu sei presente in ogni cosa, nella storia di ogni uomo. Amore sei, splendore sei, la pace, la pace. Amore sei, splendore sei, la pace, la pace. Ogni nostro errore tu ci salverai, Gesù. Dove sorge il sole, dove cresce il grano, dove scorre il miele. Vieni e guidaci, oh Gesù. Sangue ci ha redenti, ci fa chiesa in cammino. Degli oppressi e umiliati, sei la forza e liberazione. Amore sei, splendore. Amore sei, splendore.